piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono Maria Grazia Mediati, farmacista titolare a Roma, in zona prenestina. La situazione nostra è molto difficile, siamo sotto assedio, oltre 4 farmacie la notte scorsa sono state devastate, hanno rotto le vetrine, sono entrate all'interno dell'attività, hanno rotto casse, preso soldi, una situazione molto difficile dal punto di vista della sicurezza. Alcuni di noi hanno subito rapine a mano armata, dopo le 6 non c'è nessuno più in giro, siamo soltanto noi, abbiamo paura anche quando usciamo dalle farmacie in orario serale. Inoltre la situazione la potete vedere, serviamo con queste mascherine perché altro non abbiamo trovato, ce ne sono pochissime in giro, la gente lo deve sapere che noi non è che non le vogliamo dare, noi non le abbiamo e io personalmente le ho già acquistate senza averle ricevute e me le hanno fatte pagare dei prezzi molto elevati. Quindi anche il tema mascherine non è un problema che deve riguardare i farmacisti, che sono l'ultimo punto di accesso, ma deve riguardare chi le sta vendendo a noi a prezzi elevatissimi. Molta gente sta venendo con tossi, raffreddori, febbri direttamente qui in farmacia, quindi siamo a rischio, stiamo rischiando la nostra vita. Quindi noi chiediamo la comprensione dei cittadini. .000240024. Oggi ci occupiamo di farmacisti, ci siamo occupati di tante categorie di lavoratori professionisti che in questo momento sono in prima linea con il coronavirus e oggi parliamo dei farmacisti. Avete sentito l'appello in copertina di una farmacista, Maria Grazia Mediati, che ha messo questo suo annuncio disperato su Facebook perché dice: non considerate in un momento in cui sembra che il crimine sia scomparso in Italia, sembra che nessuno compia più crimini perché non se ne sente parlare più, non ci sono più i furti in villa, non c'è più paura per gli immigrati che compiono rapine e violenze varie, non si sente più parlare di qualcosa che fa sì che i cittadini debbano armarsi. Beh, invece per i farmacisti c'è un problema, come dice appunto Maria Grazia Mediati, sono probabilmente più sotto mira. Le farmacie sono dei luoghi di transumanza generale di esseri umani e più frequentati perché sono gli unici frequentabili in questo momento assieme ai supermercati. In farmacia si va per acquistare i farmaci, oggi c'è una forma di facilitazione per avere la ricetta necessaria per l'acquisto dal medico di famiglia può essere fatto per via telematica e quindi bisogna fare delle file in meno, però in farmacia bisogna andare. In farmacia molti vanno, come abbiamo registrato in questi giorni, anche per passare il tempo, soprattutto gli anziani, avendo già questa abitudine di andare dal farmacista per intrattenere conversazioni, per farsi misurare la pressione, per avere un rapporto umano, per porre quesiti sui loro acciacchi e malesseri. Oggi viene naturalmente intensificata perché una delle poche destinazioni possibili, lecitamente percorribili. Poi in farmacia si va per un'altra disperata ricerca, di cui oggi parleremo in maniera capillare, quella della mascherina. È ancora, poco chiaro, anche se abbastanza evidente, se ci sia veramente necessità da parte di tutti di indossare questa mascherina, perlomeno perché a parte i modelli FFP3 e FFP2 sono quelle più destinate a usi professionali, quindi da lasciare ai professionisti della protezione civile, dei medici, degli operatori sanitari. La mascherina chirurgica banale, che è quella verde o bianca, che è un foglio di carta particolare che funge da filtro, potrebbe essere usata, però non si trova, è introvabile. In farmacia non c'è, anche se le persone in giro ce l'hanno, ma immagino che sia sempre la stessa, anche se è usa e getta e monouso, uno ne ha una, se la porta sempre dietro. Perché? Perché è una garanzia sociale, non si è guardati come un tori. Nella fila al supermercato chi ha la mascherina, tutto sommato, passa inosservato rispetto a chi non ha la mascherina, viene guardato come un possibile inquinatore o attentatore alla salute pubblica. Quindi ci vuole per uscire, perché senza mascherina sembra che tu non sia partecipe allo sforzo comune per arginare il coronavirus. E dove si trova le mascherine? Ho provato a cercarle su Amazon. Se uno va all'articolo mascherina, anche se ne sono pubblicizzate tantissime, ho detto: questo articolo non è garantita la consegna, quindi si sa che tutte le vanno a cercare su Amazon e non si trovano nemmeno lì. Vedremo come le persone stanno ovviando comunque alla carenza di mascherine, ma cominciamo a sentire qualche farmacista. Intanto prego di chiamare a chi ci ascolta all'800 24 00 24. Il tema oggi è quello della farmacia, il rapporto con la farmacia dal punto di vista del farmacista, dal punto di vista di chi va come utente in farmacia. Non potevo che cominciare dalla mia farmacia personale, perché le conosco, le vedevo ogni giorno, ogni volta che passavo davanti alla porta della loro farmacia, che era nel rettilineo che mi portava al lavoro quando ancora andavo a lavorare fisicamente. Oggi lavoro da casa, come è noto. È la premiata farmacia Sorelle Barletta di Piazza della Repubblica a Roma. Cristina Barletta, buongiorno. Buongiorno e grazie per la bellissima introduzione. Sì, diciamo che non è più tempo di introduzione, ma è tempo di fatti da discutere a distanza, e quindi vediamo. Cristina Barletta ogni giorno pubblica nei social il suo diario di una farmacista, che poi è il diario di una persona che vede la non vita nel porticato di Piazza della Repubblica, le poche persone passare, soprattutto la paura di uscire la sera da sola nel buio, la chiusura della farmacia. Vediamo come è cambiato innanzitutto il lavoro della farmacista in questi ultimi 15 giorni rispetto a quello che possiamo vedere noi quando sporadicamente ci affacciamo alla farmacia per domandare quello che poi magari non c'è, che è la mascherina. Sì, come hai evidenziato tu, la mia farmacia è in una zona turistica e di ministeri di uffici, per cui il lavoro è differente dalla normale farmacia di quartiere. Io ho subito notato un drastico calo di affluenza, proprio perché la maggior parte correttamente svolge il proprio lavoro da casa, in smart working. I turisti ormai sono scomparsi da tantissimo tempo, per cui laconicamente io lavoro con i pochi residenti che ci sono, e constato la desolazione dei nostri portici. Cerco di dare un servizio a chi mi chiede, infatti mi sono attrezzata con una app di consegne a casa, proprio perché chi si affaccia, e qui torniamo anche al focus della trasmissione, più di domandare mascherine o gel igienizzanti mani o guanti, anche quelli che, ecco, diciamo, gli articoli più richiesti, diciamo, gli articoli non necessariamente che siano farmaci, sono naturalmente questi tre: l'igienizzante, le mascherine e i guanti. Immunostimolanti, infatti, per esempio la vitamina C è scomparsa, anche se è ottima, per carità, ma grazie sì, a ma non serve una mazza per il coronavirus, diciamolo, esatto, perché sennò però la gente si illude. Un po' le difese immunitarie, no, tu mi stavi dicendo, appunto, mi stavi chiedendo a proposito di un aumento di domanda, ecco, anche gli immunostimolanti è un'altra richiesta. Nulla di paragonabile rispetto a mascherine, gel e guanti come richiesta. Ecco, voi come vi comportate? Innanzitutto corrisponde allora, in realtà al fatto che non siano assolutamente trovabili sul mercato, non ci sono. Allora, io e mia sorella abbiamo fornito la farmacia, come molti altri colleghi, di pareti e plexiglass, quindi abbiamo ben evidenziato le postazioni anche a 1,5 metri di distanza dal bancone, dove abbiamo messo un filo rosso fisico che distanzia le persone e la clientela dal nostro bancone. Io e mia sorella abbiamo lasciato, devo dire, le mascherine alle impiegate, giustamente noi serviamo sempre da dietro questo plexiglass, perché appunto sono finite, indossando sempre i guanti, quello sì. Grazie al cielo è aumentato tanto, sia grazie al cielo per in termini di contagio, dico proprio del post, e anche perché così abbiamo anche meno contanti in cassa per eventuali delinquenti. Peraltro io all'imbrunire intorno alle 17:15-17:30 ci hanno dato la facoltà, servo con la sala cinesca chiusa, porta aperta interna, ma sala cinesca chiusa, per cui non si può entrare, non è di libero accesso. Ecco, ma tu hai sentito anche tu la voce, come lancia l'appello la collega Maria Grazia Mediati, che ci possa essere un maggior rischio per i farmacisti in questo momento? Assolutamente, assolutamente. Maria Grazia è stata una delle quattro farmacie che l'altra notte sono state prese proprio da assedio, li hanno distrutto le farmacie, perché per entrare hanno sfondato le vetrine con delle masse e quindi creando danno su danno, oltre che grande paura e preoccupazione. Fortunatamente la mia proprietà già alle 19, ma da tanto aveva assunto una guardiania privata, quindi ho in più questa sicurezza, oltre che le forze dell'ordine tra carabinieri e polizia che si affacciano spesso, però la città è grande da presidiare e le farmacie, siamo un migliaio a Roma, giustamente si dividono i compiti. Ecco, ma che senso ha, Cristina? Poi passiamo, stanno chiamando molti tuoi colleghi. Che senso ha svaligiare una farmacia in questo momento, quando soldi in cassa non ci sono? Si immagina che ce ne sono pochi, perché alla fine il lavoro è ridotto e chiudono molto prima. Per prendere anche, farmaci anche particolari? No, credo che non abbiano preso farmaci, perché erano sbandati, tra virgolette, che hanno preso quei pochi in cassa, anche se trovano 300, 400, 500 euro di fondo cassa. Avendone distrutto 4 in una notte, comunque qualcosa hanno ricavato. Poi quindi si mira alle farmacie, perché anche si pensa travisati con le mascherine, sempre in questi giorni ci sono state anche rapine per mano armata in farmacia, e anche se hanno preso, ripeto, quei 500-600 euro, perché di questo che ormai si tratta, giornalieri, comunque sono sempre denaro che hanno potuto rubare con molta più tranquillità che non nei periodi precedenti. Anche perché c'è meno presidio, perché se poi le forze dell'ordine non andare in giro a fermare le persone che portano il cagnolino a spasso. Sono straordinarie, perché entrano, passano, io vedo che anche se non riescono a entrare mi fanno un segnale con il pollice su, tutto bene, dottoressa, ti lasciano cellulari, sono straordinarie le forze dell'ordine, però purtroppo, torno a dire, così come noi, immagino che passino di più anche in supermercati, e la città di Roma, io parlo per Roma ovviamente, è molto grande. Ecco Cristina, abbiamo due colleghi da due parti opposte d'Italia, così vediamo di dare un piano nazionale. Mina, che chiama da Brindisi, e Alessandro da Milano. Mina, buongiorno. Buongiorno. Niente, stavo seguendo come ogni giorno la vostra emittente, e appunto come non dare ragione ai farmacisti e come non dare ragione a noi. Io sono un autista dell'azienda Tundo di Lecce, lavoro presso l'ASL di Lecce, noi trasportiamo malati dializzati e oncologici, e viviamo e stiamo vivendo queste giornate veramente nel caos più totale. Le mascherine non ce le ho, anche se l'azienda è disposta, le ha fatte fare, sono poche, non bastano, abbiamo a che fare con pazienti molto delicati, immunodepressi. Noi ci tuteliamo e non vogliamo fare gli eroi, noi siamo persone molto solidali verso questi pazienti, ma mi chiedo come mai tanto, e tante mascherine sono ferme ai confini della Polonia, e proprio ieri sera la presidente dell'Unione Europea, la von der Leyen, ci ha detto che arriveranno la settimana entrante. Ma il governo? Mina, perché chi ce l'ha se le tiene, essendo diventato un bene raro, assurdo. Noi siamo in un paese in cui di media abbiamo un cellulare a testa, cioè uno strumento che costa dai 300 ai 1500 euro a testa. Non possiamo avere una mascherina a testa, perché improvvisamente ci siamo resi conto che manca. E manca, come sempre accade quando un bene diventa raro, un bene diventa preziosissimo. Ma oggi cercheremo di dare anche delle risposte in questa direzione. Alessandro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Ma sì, noi farmacisti, io quello che volevo dire, noi farmacisti stiamo cercando di ordinare quotidianamente delle mascherine e continuiamo a dirlo ai nostri clienti, però la situazione è esattamente questa. Cioè, ecco, ma i vostri fornitori cosa vi dicono? Perché come io non le trovo su Amazon, penso che sia difficile comprarle anche per un farmacista. No, assolutamente, cioè, personalmente io ho una mascherina FP2 comprata 10 giorni fa in un supermercato, solo perché una gentile cliente è venuta in farmacia da noi e ha detto: guardate che in questo momento le hanno, correte a prenderle anche per voi. Questa è la situazione delle farmacie. Io oggi ho passato la mattina al telefono su diversi fornitori, due dei quali segnalati da Federfarma, quindi dall'Associazione dei Farmacisti di Milano, e quindi fornitori di qualità verificata e così via, e anche loro hanno dei problemi ad accettare gli ordini, perché ovviamente sono chiamati da tutte le farmacie, da tutti gli enti, perché ci sono dei blocchi alle frontiere, perché non è benissimo chiaro che cosa sta facendo la Protezione Civile, che giustamente vuole intercettare il più possibile ogni tipo di protezione per chi lavora negli ospedali. Paradossale, Alessandro, che in un paese come il nostro, tecnicamente, perlomeno mediamente avanzato, il bene di prima necessità è un pezzo di carta con due elastici, però alla fine la mascherina chirurgica, quella che deve mettere il cittadino, perché lei è un FFP2 che è già qualcosa che non occorre portare, con i filtri che vanno cambiati, serve a un operatore che sta a contatto con molte persone e con persone potenzialmente infettate, che un pezzo di carta con due elastici sia diventato un prodotto introvabile in un momento in cui abbiamo di tutto, abbiamo accessori per i cellulari, abbiamo auricolari, abbiamo attrezzature consumer per comprarne a vagoni, manca un pezzo di carta con due elastici. Emilio da Pavia, buongiorno. No, scusatemi, ho sentito quello che avete che ha detto adesso recentemente e condivido al 1000 per 1000, perché è la sacrosanta verità. No, io volevo fare un'altra osservazione sul discorso delle farmacie. Cioè, è vero, le farmacie vengono rapinate, le farmacie adesso stanno vivendo dei momenti terribili, tutto quanto, però uno Stato serio, e non ce l'ho con le farmacie, ce l'ho con uno Stato, che non abbiamo purtroppo uno Stato serio. Uno Stato serio interverrebbe per la protezione delle farmacie se ci sono questi problemi. Abbiamo esercito. Lo Stato serio sta già facendo, penso, onestamente, ma io sono una tra le persone più critiche normalmente, passo per un disfattista. Abbiamo guardia di finanza, non stanno facendo i controlli adesso sulle aziende perché ne mancherebbe. Allora, oppure una farmacia, perché c'è un problema grosso. Le farmacie non le produciamo in Italia, Emilio. No, in Italia ci siamo accorti che non produciamo mascherine e mancano le mascherine. Da fuori non ce le danno, perché ognuno le tiene per sé, come mi sembra logico. Se ne avesse 10 le terrebbe in famiglia per moglie, figli e parenti. E quindi in questo momento ci si accorge che una cosa semplicissima, di costruzione tutto sommato non penso complessissima, manca nel nostro paese, non è trovabile nel nostro paese. Ci sentiamo tra un istante. Questa mascherina è una mascherina che potrete costruire semplicemente prendendo un assorbente con le ali. Prendete questo assorbente, lo potete tranquillamente aprire, rimuovete le linguette adesive, potete posizionare la parte centrale che ha anche l'incavo per il naso, che è questo qua, andandolo ad appoggiare sulla radice del naso, facendo attaccare l'adesivo. A questo punto chiudete le parti laterali e confezionate la mascherina, che è una mascherina perfettamente adesiva e che comunque permette la respirazione. La carta da forno, che possiamo trovare in tutti i supermercati anche a buon prezzo, e quindi non dobbiamo pagarla la tonnellata, può essere il materiale ideale per creare la nostra mascherina. Perché? Perché nella carta da forno c'è un limitato passaggio di umidità, e poi lo vedremo insieme, ma fa passare comunque l'aria. Per cui cosa dobbiamo fare? Per questo tutorial cosa ci servono? Ci serve la carta forno, poi ci servono un paio di forbici, queste anche le ho disinfettate comunque con l'alcol, degli elastici, potete utilizzare questi, ma anche gli elastici per capelli vanno bene. Una pinzatrice o uno scotch. Io utilizzerò la pinzatrice, primo perché non ho lo scotch, e dai, secondo perché... Dai, possiamo sentirci mezz'ora di tutorial su. Ecco, se no ce lo dobbiamo sentire tutto, vederlo ha un senso, sentirlo ha senso un po' meno. Stiamo trasmettendo alcuni dei tutorial che stanno girando in rete su come autocostruirsi le mascherine. Questa signora lo faceva con la carta forno, come ha già spiegato Barbara Palombelli, poi un farmacista ha detto la carta forno non serve a niente, fatela con le garzine e con gli elastici, la fanno con le garzine e gli elastici. Poi c'è stato chi ha tirato fuori la genialata degli assorbenti. Io stesso ho comprato un pacco di Lady Normal per vedere se con gli assorbenti femminili è possibile farsi una mascherina. Devo dire che c'è qualche difficoltà, ma ci stiamo arrangiando, perché tutti pensiamo che questo sia un presidio per noi importante, però non si sa assolutamente come provvedere. Vedo che c'è uscita poco fa un'agenzia dove parla Mandelli, che il diciamo il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, dice: in farmacia solo per emergenze, le mascherine non ci sono, quindi è inutile andarle a cercare in farmacia. Sentiamo velocemente Enzo da Milano. Enzo, buongiorno. Buongiorno, volevo solo suggerire che le mascherine si possono trovare anche dalle terramenta che sono aperte e dai colorifici. C'è andato? Lei c'è andato? Io lavoro in quel settore. Nelle ferramenta, secondo lei, ci sono adesso le mascherine, quelle da verniciatore o da saldatore? Non tutti le hanno, ma c'è chi le ha ancora. Mi risulta che non ci sono più nemmeno quelle, che però non sono le mascherine che servono. Utile mettersi una maschera da alto forno. Io ce l'ho anch'io, la FFP2, l'ho presa dalla ferramenta. Certo. Va bene, vediamo se in ferramenta qualcuno riesce a trovare le famose mascherine, visto che la ricerca diventa così complicata. Ecco, senza arrivare alla ferramenta e fermandosi alle farmacie, Marco Cossolo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Presidente di Federpharma, vediamo se riusciamo a dare perlomeno quello che è l'idea di un panorama nazionale nelle farmacie italiane rispetto a questo che mi sembra il problema principale. Ancora nessuno lamenta la carenza di farmaci, anche se qualche allarme c'è nelle forniture, però i farmaci ci sono, però la mascherina, che sembra ormai il presidio indispensabile alla propria serenità, non si trova in farmacia. Lei cosa può aggiungere a quanto hanno già detto molti colleghi farmacisti? No, io condivido quello che hanno detto i colleghi. Le farmacie, neanche quelle a tre veli, tipicamente quelle mascherine chirurgiche, nelle farmacie non ci sono. Facciamo difficoltà a metterle a disposizione anche degli operatori, dei colleghi che lavorano in farmacia. Stiamo lavorando con le autorità preposte, con la protezione civile, per mettere a disposizione dei farmacisti. Da vendere oggettivamente non ci sono. Condivido quello che diceva il collega Mandelli, è inutile andare in farmacia in questo momento a chiedere le mascherine, perché le mascherine non sono disponibili, non sono disponibili per la vendita al pubblico, se non rare eccezioni che non c'è dato di conoscere. Men che meno. Ma le dico, Cossolo, non trovandole più nemmeno su Amazon, che è il mondo, Amazon ti dice: se tu ordini una mascherina, questo articolo non è probabilmente consegnabile, quindi vuol dire che non ci sono nemmeno più su Amazon, quindi non le mandano manco più, quindi no. Mi sembra veramente difficile che le trovi in farmacia qualcuno. Assolutamente no, cioè io, a mia conoscenza, nessuna farmacia ha più mascherine da vendere. Sono stati fatti vari provvedimenti per facilitare la vendita, anche nell'ultimo decreto del Presidente del Governo c'è la possibilità di sconfezionare, che prima non era prevista. Però le mascherine non ci sono. Io direi di consigliare agli utenti che è inutile recarsi in farmacia per chiedere le mascherine, perché le mascherine non ci sono. Quindi se uno si muove, si reca nella sua farmacia a comprare le mascherine, aumenta solo il suo rischio. È inutile andarci a chiedere le mascherine, perché le mascherine, ecco, non sono disponibili. Cossolo, chiedo a una persona che comunque ha conoscenze tecniche maggiori sicuramente delle mie o della media degli italiani. Esiste secondo lei una possibilità, visto che siamo in un momento di disperazione da questo punto di vista, la mascherina non c'è, si sente la necessità di portarla anche come strumento di riconoscibilità, di attenzione sociale verso gli altri. Esiste una possibilità secondo lei di costruirsi una mascherina, visto che alla fine la mascherina più semplice, il presidio chirurgico, quella che banalmente potrebbe servire a tutti, perché prendere quelle più sofisticate è inutile, è possibile costruirla in qualche maniera con materiali facilmente reperibili secondo lei? Guardi, io le dico, ci esistono vari tutorial, li avete rappresentati anche voi qualcuno. Io ritengo che nessuno di questi tutorial possa dare al cittadino la garanzia scientifica che costruisce una mascherina che lo mette al riparo dal contagio. Quindi io scientificamente devo dire che questi tutorial, per quello che mi è dato di sapere, non sono assolutamente affidabili. Poi bisogna dire anche due cose diverse, che la mascherina, la FFP2 e la FFP3, serve per coloro che sono direttamente a contatto con la persona che è stata contagiata, e per essere attendibile il filtro va disinfettato ogni 4-5 ore, quindi la rimanente mascherina, sia quella a tre veli che altre costruzioni fantasiose che vengono fatte, hanno più che altro un supporto psicologico, perché se io vengo a contatto con una persona che è stata infettata, io da una mascherina FFP3, da una mascherina a tre veli non sono assolutamente riparato. È molto più utile lavarsi le mani con i gel disinfettanti e mantenere le distanze raccomandate. oltre il metro, perché in questo quindi modo... Quindi Corso, lei mi conferma quella che è una mia idea, noi stiamo inseguendo un'altra follia di ansia collettiva, come quelli che andavano a comprare lo zucchero nei supermercati quando c'erano i bombardamenti in Iraq, pensando ancora alla guerra, seconda guerra mondiale. La mascherina in realtà in questo momento tutti la cercano e sembra indispensabile, ma per la vita quotidiana, per andare a fare la spesa al supermercato e andare in farmacia, in realtà non dovrebbe servire se uno si lavasse le mani e stesse a debita distanza dagli altri. Le mascherine super tecnologiche che vedo acquistare, vedo gente che guida l'automobile da solo con l'FFP3, la mascherina con tutti i filtri, totalmente inutile. Lasciamo quelle poche che ci sono, ecco, appunto, ai farmacisti, agli infermieri, ai medici, alla protezione civile, alle persone che stanno in contatto sicuro con persone infettate. Assolutamente d'accordo con lei, cioè, poi capisco, io non mi sento di colpevolizzare nessuno, veda, in questo momento c'è una specie anche di paura collettiva, legittima, giustamente vengono date raccomandazioni di stare a casa alle persone, e questa è la vera raccomandazione che serve, cioè di stare a casa propria, non uscire se non nei casi in cui è necessario, anche per andare in farmacia. Adesso, tra l'altro, è uscito ieri un provvedimento della protezione civile che dematerializza completamente la ricetta, ovvero consente ai medici di inviare la ricetta o via mail o via sms o attraverso un numero di ricetta elettronica, un numero particolare, al proprio paziente, il quale così non deve più uscire e andare dal medico a ritirare la ricetta. È un altro modo per evitare che le persone vadano troppo in giro. Quello che io raccomando è di stare a casa. Le farmacie si sono organizzate anche per fare servizi di consegna domiciliare, sia attraverso un numero proprio della Federpharma, sia attraverso un numero attraverso una convenzione con la Croce Rossa, ma questi servizi sono riservati alle persone che effettivamente hanno bisogno, le persone a rischio, le persone... Quindi obiettivamente le poche mascherine efficienti che sono su piazza è meglio che le usi la persona che vi porta i farmaci a casa piuttosto che le usiate voi per andare a fare la spesa al supermercato. Sono assolutamente d'accordo con lei. Ragazzi, non ci prendiamo in giro, le persone che girano questa mascherina in faccia è sempre la stessa, non la cambiano ogni volta o col filtro ogni 6 ore, hanno una mascherina che si mettono la mattina e ci stanno tutto il giorno, ci escono il giorno dopo, è più che altro una sorta di mascheramento per far vedere che uno psicologicamente fa parte di quelli che si cautelano. Io vorrei fare la prova di tutte le persone che vedo con le mascherine in faccia, come la quant'è che l'ha cambiata questa mascherina, vedete che avrà sempre la stessa mascherina, tanto vale disegnarsela sulla faccia, lasciarsela sulla faccia. Ringrazio Marco Cosso, lo introduco soltanto l'ospite che in realtà mi fa riflettere. Marco Gasparini, buongiorno. Buongiorno. Allora, la presento soltanto, lei è un imprenditore tessile, presidente del CNA Federmoda di Modena, che mi sembra sia un consorzio di persone che si occupano di confezionare abiti e accessori di moda. Lei è stato fra i primi che ha detto: ma noi vogliamo in qualche maniera metterci a costruire le mascherine. Come le è venuta l'idea e come razionalmente può pensare che questo sia attuabile? Allora, la correggo nel titolo, che nel senso che rappresento per conto di CNA settore moda, perché sono del settore moda, quindi è come Confindustria o qualche altra associazione del coso. Noi su carte, come voi occupate di moda, vi occupate di abiti, di fashion, non vi occupate di mascherine, perfetto. Assolutamente no. Noi, che siamo un distretto conosciuto già dal dopoguerra, noi su questo distretto abbiamo un tavolo comune coordinato col comune che si chiama Carpi Fashion System. Lo spiego perché su quel tavolo ci sono tutte le associazioni di categoria, quindi Confindustria, Confartigianato, CNA e la parte pubblica del comune. Su questo tavolo ci siamo messi, proprio ascoltando quello che diceva lei prima, a pensare: ma tutti fanno o tentano di fare carta velina, mascherine, insomma, di tutto che c'è, per la paura, come diceva lei, ma noi non vogliamo fare una mascherina sanitaria. Primo perché non abbiamo... Fermo un attimo, Gasparini, fermo un attimo. Allora, dobbiamo soltanto dare la linea. Marco Gasparini e altri suoi colleghi che sanno dove mettere le mani, cioè sanno come cucire, come confezionare, e hanno anche una mentalità imprenditoriale, per cui sanno che non possono mettere sul mercato una patacca, stanno lavorando per costruirsi le mascherine. Tra un po' vi faremo capire come e in che maniera stanno lavorando. Tra un istante. Melog. 800 24 0024. Stiamo parlando con un imprenditore tessile, Marco Gasparini, emiliano, mi sembra che sia Carpi lei esattamente, Gasparini? Sì, pronto? Sì, Carpi. Sì, Carpi. Sì, Carpi. Abituato da per la sua professione a confezionare, avere a che fare con chi confeziona accessori di moda, insieme ad altri imprenditori si stanno attrezzando per costruire loro delle mascherine. Che tipo di mascherina vorreste costruire o confezionare? Innanzitutto usando i materiali che conosciamo possiamo esprimere le nostre qualità professionali, quindi una mascherina di cotone che non è un uso e getta, ma è proprio perché è cotone, potrebbe essere sterilizzata e quindi multiuso, quindi un conto è produrre 1 milione di mascherine usa e getta, un conto produrne 100.000 che la puoi usare 6 o 7 volte. Quindi uno altri se ne 20... compra due, una la lava e una se la mette, la sera sì. Una ne sterilizza e l'altra se la mette, quindi avrebbe sempre una mascherina. Sì. Il questo non tanto perché dobbiamo usare i materiali nostri, ma semplicemente perché vorremmo lasciare libero a chi lo ne ha necessità, quindi la sanità in primis, le mascherine idonee per questo tipo di, quindi noi non ci vogliamo mettere in prima linea dicendo facciamo le mascherine più belle e più toghe di questo mondo, vogliamo fare un sistema di mascherine che supporta questa collettiva frenesia che c'è, dando una sicurezza, perché tra l'altro noi stiamo lavorando e testando queste mascherine di cui non venderemo, ma però il distretto si mette a disposizione della protezione civile, quindi non c'è. Quindi voi le costruite innanzitutto, le confezionate per darle alla protezione civile, come è giusto? I primi a usufruirne sarebbe la protezione civile e le persone che sono a contatto con il virus. Assolutamente. Poi, se poi funziona, non vedo perché no, anche distribuirle poi anche alla popolazione. Il libero mercato fa sì che ognuno lo faccia, però all'interno di questa istituzione che è Carpi Fashion System, che il vice sindaco di Carpi ha in mano, noi non vogliamo fare per metterci speculazioni, quindi chi lavora sotto questo progetto deve lavorare a queste regole. Poi il libero mercato, uno si fa l'autocertificazione, la manda al ministero, aspetti 3 giorni, bla bla bla, e fa tutto il suo percorso ed è libero. Gasparini, solo per spiegare meglio, sennò sembra, non sto parlandovi di un'altra persona che sta facendo un tutorial e sta mettendo su rete una sua idea. Voi lavorate con tutti i canoni della regolarità, troverete anche qualcuno che vi dia la certificazione di queste mascherine una volta che l'avete confezionato? Assolutamente, difatti noi siamo pronti per partire, manca solo che stiamo facendo i test di laboratorio convalidati anche dalla protezione civile nazionale, infatti il vice sindaco è in contatto con la protezione civile, perché noi non vogliamo fare un pezzo che non sia a caratteristiche sanitarie uguali. Poi noi non siamo certificati bene, certificati per il mondo sanitario, benissimo, noi però lo specifichiamo, noi vogliamo mettere sul mercato riservato, in questo caso il mercato riservato alla protezione civile, un prodotto che sia utile a tutti quelli che devono andare a lavorare, che per motivi non rientrano nel tema sanità, punto. Quindi è un parallelo di sostegno. Posso chiedervi come funziona il sistema di filtraggio, solo per capire? Le spiego subito. Sono due tipi di tessuti accoppiati, è un jersey, perché noi qua col jersey ci mangiamo tutti i giorni, l'abbiamo accoppiato con un altro tipo di tessuto, chiaramente con fibre che non permettono, che c'è già tutto un percorso di sterilizzazione antibatterico dei filati che noi usiamo, perché c'era tutta una ricerca che prima andava per chi curava la salute propria, quindi è un percorso da hobbista per un mercato da persona che ama il proprio corpo, quindi un percorso che si era già avviato. Ma infatti quello che mi dicevo Gasparini, con i tessuti oggi che ci sono fantastici per tutte, per l'attrezzatura sportiva, per la biancheria intima, possibile che non si trova un tessuto che possa filtrare meglio della carta? Ma guardi, che io dico, i primi campioni che abbiamo fatto fra sabato e domenica scorsa ci davano i test che fondamentalmente erano migliori rispetto a quelle mascherine che vanno tutte a ruba. Qual è il problema? È che io sono un tessuto e se lo faccio per un articolo sportivo è per l'articolo sportivo, quindi non sono certificato, bisogna che trovo qualcuno, e lo stiamo trovando, lo stiamo facendo, di trovare qualcuno che ci certifichi il percorso, che se noi decidiamo che questo articolo va meglio che la mascherina non voglio entrare in confusione con altre mascherine, fondamentalmente mi sembra che qualcuno me lo certifichi, noi la tecnologia ce l'abbiamo già pronta. Quindi mi sembra di aver capito che in un momento in cui sembra che tutto sia perduto, esiste ancora chi mette a punto le sue capacità professionali, la sua inventiva, perché qua c'è un progetto che richiede una grande fantasia inventiva. Perché Gasparini, lei che ha cambiato da un giorno all'altro la destinazione di parte della sua azienda, non è mia, vabbè, è del chi per lei comunque. Fa parte delle relazioni che abbiamo nel distretto. Va bene, è diciamo una serie di persone nella zona del Modenese si sta preoccupando di risolvere un problema nazionale, o perlomeno fa la sua proposta per risolvere un problema nazionale. Dice: noi confezioniamo abiti, conosciamo i tessuti, abbiamo seguito tutte le regole per costruire una filiera efficiente, non è un accrocco tanto per farlo. Assolutamente. Saranno testate, sono già sotto sperimentazione, e la protezione civile un domani che avesse bisogno di mascherine, o i farmacisti, i medici, gli infermieri. Noi stiamo facendo una risposta autarchica, visto questo termine piace tanto, che però ha la sua efficienza. Visto che in Italia ci si era dimenticato di produrre mascherine, il gruppo di lavoro di Marco Gasparini sta lavorando per costruirci. Grazie, in bocca al lupo. Di Carpi Fashion System, non è mio. Ecco, lo dica esattamente, a chi siete, così magari lo dico con esattezza. Noi siamo praticamente un tavolo tecnico che riassume le tre categorie che rappresentano gli imprenditori, quindi Confindustria, Confartigianato e CNA, coadiuvato dall'assessore Stefania Gasparini, vice sindaco. Ah, perfetto, benissimo. Noi, questo tavolo, che è un tavolo istituzionale, coordiniamo la promozione del territorio, e in questo caso ci siamo ritrovati e detto: perché non facciamo qualcosa per tutti? Mi sembra, sono stato contento di avere scovato questa iniziativa e averla resa pubblica a livello nazionale. Spero che altri diano incentivi. Vi aspettate qualche sussidio di tipo pubblico per poterle produrre? Come funziona? No, non ci sperate. No. Speranza se viene tanto meglio, però insomma, di solito un artigiano è sempre abituato a trovare problemi e cercare di risolverlo da solo o con l'aiuto degli altri, o poi gli attori che vogliono mettersi a sedere a un tavolo. Va bene, chiunque avesse contributi da poter dare, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista concreto o fattivo, a questo gruppo di persone che stanno lavorando nel territorio emiliano, noi siamo pronti a dargli riferimenti. Grazie Marco Gasparini. Sentiamo Giorgio da Torino. Sì, pronto, sono qua. Ascolto. Mi chiamo Giorgio Gai e sono un imprenditore che si occupa di macchine automatiche, anche molto veloci, fino a 1000 pezzi al minuto. Eravamo in grado la scorsa settimana di dare ai nostri 5 clienti 5 macchine in 10 giorni per produrre 500.000 mascherine al giorno. Ma ci siamo impastoiati nella burocrazia. Cioè, che si dice, voi avete le macchine per produrre le mascherine, però non le potete far produrre. Perché? Questo è interessante. Perché i tessuti, qua stiamo parlando delle surgery mask, cioè sono le mascherine da sala operatoria, quindi vanno molto bene per anche quelle per tipo chirurgico, quelle più semplici, quelle doppio strato, doppio velo, come sono, le chiamano? Tre strati. Sì. Il primo layer è un tessuto non tessuto, il secondo, quello di filtraggio, un polipropilene, dove ci sono già aziende che si sono mosse qua in Italia, che hanno questi tessuti, che danno ad altri paesi dove non è necessaria questa certificazione. Però scusi, solo una battuta, Giorgio, visto che siamo in sigla. Voi avreste le macchine per poterle produrre? Certo. Vi mettiamo in contatto con Marco Gasparini, loro hanno i tessuti, può essere che magari messi insieme riuscite ad aiutarvi a fare qualcosa. La sto purtroppo mettendo insieme questa cosa nell'ultimo minuto, ma lunedì ritorneremo con Melog, ripartiremo proprio da questa idea della mascherina autarchica, visto che sembra uno dei problemi che dà maggiore serenità in questo momento agli italiani, e di serenità c'è bisogno per tutti. Alla prossima.